Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17, 8 minuti e 18 secondi. Buonasera, gentili ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Ho detto buonasera, ma nemmeno quella di oggi è una buonasera. Il FTSE MIB c'è del 2,4% in questo momento, il FTSE All Share il 2,35%, invisibile peggioramento negli ultimi minuti, male anche Francoforte che lascia sul terreno il 2,18%, Milano per carità non ce la facciamo mancare nemmeno oggi, anche oggi è comunque la borsa peggiore, fatta eccezione per Zurigo che comunque fa solo parzialmente riferimento all'Europa e cede così tanto alla fine perché ieri era chiusa e quindi non ha avuto occasione di perdere terreno ieri. Parigi lascia sul terreno invece l'1,47%. L'America è negativa, meno 0,71% sul Dow Jones, il Nasdaq perde lo 0,64%, per darvi un'idea il FTSE All Share in una settimana di contrattazioni ha perso l'8,5% circa, questa più o meno la variazione percentuale. In una giornata che è ancora una giornata di tensione, ve l'abbiamo raccontato e ve l'abbiamo testimoniato dicendovi anche come sono andati i titoli di Stato, come è andato lo spread, il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, che è in realtà solo una parziale misurazione se considerate che l'agenzia di stampa Radio Core, il Sole 24 Ore, ha appena battuto la notizia che il rendimento dei Bund tedeschi a 10 anni è sceso al di sotto del tasso di inflazione in Germania per la prima volta dalla riunificazione nel 1990, quindi dipende sì dall'incremento dei rendimenti dei titoli di Stato italiani, ma evidentemente anche da un abbassamento del rendimento dei titoli di Stato tedeschi, per quanto limitato, il decennale è a 2,395% contro un'inflazione del 2,4% annuo in luglio. Parleremo di questo ancora una volta in apertura, com'è naturale, e poi parleremo anche dei riflessi politici e istituzionali di tutto questo. Oggi la riunione convocata dal Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, domani l'intervento di Silvio Berlusconi in aula, che naturalmente al quale dedicheremo uno speciale domani pomeriggio, e poi l'incontro di giovedì con le parti sociali, quindi un'agenda agostana doveva essere, come di solito è in agosto, un'agenda poco fitta e invece che diventa particolarmente fitta. Nonostante questo, naturalmente stiamo tranquilli, non è per fare demagogia, il Parlamento se ne va in vacanza per un mese, c'è questa necessità, a quanto pare ci sono un centinaio di deputati, apprendiamo da notizie di oggi, che devono andare in pellegrinaggio in Terra Santa. Chi vuole cogliere ironia in tutto questo la colga. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve di oggi. Ancora un record per l'oro, e anche questa non ce la facciamo mancare, 1643,70 dollari l'oncia. Fa registrare invece lievi cali il petrolio, meno 0,4% per quanto riguarda New York, il WTI a 94,54 dollari al barile. Sono le notizie dagli Stati Uniti, naturalmente la Camera ha approvato l'accordo sul debito, si attende il voto del Senato, il voto del Senato americano voterà alle 18 ora italiana. Ma dall'America ci sono anche segnali negativi dal lato della spesa personale, dal lato dei consumi privati. Ha segnato in giugno un calo mensile dello 0,2% ed è la prima flessione da circa 2 anni, nonostante sia stato rivisto al rialzo il dato di giugno, comunque un più 0,1%, quindi non un granché. Crescono però contemporaneamente i redditi dello 0,2%. Dato appena battuto dalle agenzie, nel mese di luglio le immatricolazioni di General Motors negli Stati Uniti sono cresciute del 7,6% e questo dovrebbe essere in realtà un segnale positivo, da 214.915 unità. Nei primi 7 mesi dell'anno le vendite sono cresciute del 15,3%. Degli spread vi abbiamo detto, lo spread tra BTP e Bund decennali ha superato anche la soglia dei 380 punti base. Il differenziale si è ampliato a 384 punti, poi ha toccato i 386, poi ha ritracciato e tornato indietro, a ridosso di quota 370. È iniziata nel frattempo al Ministero dell'Economia la riunione del Comitato per la Stabilità Finanziaria con il ministro Giulio Tremonti ad analizzare la difficile situazione dei mercati. Ci sono Consob, Banca Italia e ISVAP. Da segnalare che in mattinata c'è stato un incontro tra il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Un incontro, tra l'altro, non è il primo di questi giorni, ce ne sono stati 4-5. Per stasera, tra l'altro, è fissata una riunione a Palazzo Grazioli tra il premier Silvio Berlusconi e i vertici del PDL. È un incontro che verterà sul tema dell'intervento, dell'informativa che farà il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi domani in aula alla Camera. Si apprende anche da fonti di Via 20 Settembre, come sapete sede del Ministero dell'Economia, che ci sono stati fitti contatti tra il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti e i colleghi europei proprio sulla situazione che si registra in queste ore sui mercati. Nel frattempo da Bruxelles arrivano segnali importanti e di incoraggiamento per l'Italia. Si dice, la Commissione europea dice che è pienamente fiduciosa sulle misure prese dall'Italia per fronteggiare la situazione, lo ha riferito la portavoce della Commissione europea. Chiarisce ancora la Commissione europea che un programma di aiuti non è sul tavolo, rispondendo a domande su Spagna, Cipro e Italia. E poi ci sono segnali positivi che arrivano dall'OCSE sulla Grecia. Il piano di riassetto di bilancio può avere successo, scrive l'OCSE, basandosi, dice, su assunti prudenti in materia di crescita e tassi di interesse se le riforme fiscali saranno pienamente implementate. Certo, i tempi sono lunghi secondo l'OCSE, ci vorrà un ventennio per portare il rapporto debito-PIL sotto il 60%. Poi c'è il tema dei tagli alla politica, insomma qualcosina vi abbiamo accennato poco fa, c'è il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nei giorni scorsi, lo sapete, ha deciso di congelare qualsiasi adeguamento del suo stipendio e procede all'opera di riduzione dei costi del Quirinale che sinora ha generato risparmi per 72 milioni di euro. Nel frattempo il Consiglio regionale del Lazio, apprendiamo, si appresterebbe a votare una delibera che prevede un sostanzioso incremento degli stipendi dei dirigenti dei gruppi consigliari, dagli attuali 4.500 euro netti al mese fino a 7.500. Alla faccia dell'austerità. Dice intanto il presidente della Camera Gianfranco Fini che ritiene inammissibili gli ordini del giorno al bilancio che prefigurano interventi per bloccare i vitalizi, altro grande tema, acquisiti dai parlamentari perché sarebbero in contrasto con i principi generali dell'ordinamento. Si può ragionare insomma sui vitalizi futuri ma non su quelli acquisiti. E queste ve le segnaliamo così, insieme alla notizia che vi abbiamo dato, insomma, parlando dell'attività estiva della Camera dei Deputati. Ora iniziamo col primo tema, che è naturalmente quello dei mercati. Allora, ci chiedete di fare i nomi dei 100 deputati che andranno in pellegrinaggio in Terra Santa. Francamente non lo sappiamo, insomma, ci chiedete e dite anche speriamo che il miracolo si compia. Bah. Insomma, forse non è proprio ai miracoli che dobbiamo guardare. Ospitiamo anche oggi Moria Longo del Sole 24 Ore. Moria, bentornato e buonasera. Buonasera a tutti. E salutiamo un ospite nuovo, quantomeno per Focus Economia, Mario Seminerio, analista macroeconomico, portfolio advisor e autore del blog Fastidio, col PH. Fastidio, buonasera, dedicato buonasera a tematiche economiche e finanziarie. Buonasera ancora, Seminerio. Buonasera. Allora, ieri direi che abbiamo dato un quadro abbastanza ampio della situazione. Naturalmente quello che sta succedendo ci impone di ritornare su questi temi, perché ve lo ribadisco, le cose sono peggiorate tra l'altro negli ultimi minuti. Il FTSE MIB perde il 2,4%, il FTSE All Share il 2,38%, e insomma, come dire, la pressione dei mercati continua a farsi sentire, piuttosto forte. Allora, inizierei da Moria Longo proprio sul tema del differenziale di rendimento tra BTP e Bund. Qualcosina abbiamo accennato ieri, c'è questo dato che, appunto, come diceva, tirato fuori poco fa l'agenzia di stampa Radio Cori, il Sole 24 Ore, sul fatto che comunque c'è anche una questione di calo dei rendimenti per quanto riguarda i Bund tedeschi, cioè non è solamente un incremento di rendimento da parte dei BTP italiani, e quindi questo differenziale si amplia dalle due parti. Ecco, da questo lato ti chiederei, Moria, come siamo messi, perché ieri ci dicevi sempre da questi microfoni il livello critico è il 7%, mi sembra che ci stiamo avvicinando pericolosamente. Il 7% di rendimento, non di spread, cioè lo spread è la differenza di rendimento tra i titoli italiani e quelli tedeschi. Sì, sì. Il 7% è quello che è considerato da tutti gli analisti, da tutti gli economisti, come il punto di non ritorno, in un certo senso. Quando un rendimento decennale un titolo di Stato supera quella soglia, e la supera non per un secondo, ma la supera per un tempo considerevole, diventa insostenibile il rifinanziamento del debito, cioè il costo del debito diventa troppo alto, e lo Stato, è successo alla Grecia e all'Irlanda, superato questi livelli hanno dovuto chiedere aiuto perché da soli con le loro stesse gambe non ce la potevano più fare. È ovvio che più si avvicina il titolo di Stato italiano al rendimento decennale a questa soglia, più i mercati si spaventano e quindi vendono, e quindi vendendo fanno scendere i prezzi e fanno salire i rendimenti. Quindi, diciamo, è una sorta di profezia autoavverante, il rischio è questo. Quello che serve è quello che dicevamo ieri, ma non lo diciamo da ieri, è purtroppo quello che serve da mesi, se non da anni. Serve una risposta della politica, una risposta seria, non solo in Italia ma in Europa. L'Europa ha questo grosso handicap, che è un'unica valuta con un'unica banca centrale che emette moneta, ma ha tantissime politiche fiscali, ha tantissimi governi diversi. Già se ci fosse il presidente dell'Europa, come oggi veniva proposto da qualcuno, sarebbe già un qualcosa di diverso, è la grande differenza che c'è con gli Stati Uniti. Quindi l'Europa ha questo deficit politico, questa difficoltà politica che la rende incapace di gestire questa situazione. Questo serve, una risposta politica. Detto ciò è tutto molto futuribile da questo lato, Moria, nel senso che sì, però i mercati si muovono sulle aspettative. Basterebbe l'inizio di un'agenda, basterebbe un piano per fare qualcosa, cioè i mercati aspettano risposte, altrimenti continuano a vendere, e non è la speculazione che fa questo, è il panico. È normale che i grandi investitori internazionali vedono un'Europa sempre più in difficoltà, e all'interno dell'Europa alcuni paesi che hanno determinati punti critici, l'Italia ha un grosso punto di debolezza che è questo gigantesco debito pubblico, è normale, è umano che vendano. Siamo noi che dobbiamo rispondere, e dobbiamo rispondere con i fatti, non con la caccia alle streghe. Allora, Seminerio, concorda con l'analisi più o meno? Guardi, incondizionatamente, devo dire che mi sembra un'analisi che sottoscrivo in pieno, è perfetta. C'è un problema sicuramente politico, c'è un problema di ambiguità nella definizione dei contenuti, soprattutto sul piano operativo dell'Eurovertice del 21 luglio, c'è anche una specificità italiana. Allora, trattando questi argomenti con ordine, io direi questo: il problema principale resta sempre il volume di fuoco, il volume di munizioni di cui l'Europa dispone in questa circostanza, perché se è vero che il vertice del 21 luglio ha stabilito il principio generale che il Fondo Europeo di Stabilizzazione Finanziaria, l'FSF, potrà eventualmente muoversi anche sul mercato secondario, quindi comprando titoli che sono già presenti sul mercato. È però vero che la dotazione delle FSF è al momento invariata alla soglia di 440 miliardi di euro, garanzie incluse e margini di sovracollateralizzazione inclusi. E questo, se si deve in qualche modo schermare, scudare quello che è il vero e proprio elefante nella cristalleria, cioè l'Italia, schermarla da un attacco speculativo, e poi vedremo dopo cosa vuol dire attacco speculativo, è chiaro che queste risorse sono assolutamente risibili. La cosa che irrita, secondo me, diciamo in generale, è che al di là del comunicato trionfalistico di quel vertice del 21 luglio, ora siamo in una pausa estiva formalmente e la FSF rimane con le sue dotazioni, di cui spendibili credo che siano qualcosa meno di 250 miliardi di euro. Sì, abbiamo sentito anche parecchie opinioni su questo tema. L'idea è sempre quella che alla fin fine questo sia un tappo semplicemente per risolvere il problema greco e poi alla fine del problema di alto debito, del quale lungamente abbiamo parlato ieri anche in questa trasmissione, dell'alto debito in generale, quindi degli altri paesi cosiddetti periferici, più o meno forti, dalla Spagna all'Italia al Portogallo, in realtà non si sia assolutamente ragionato, no? Guardi, è vero, il discorso, la famosa frase solenne, stiamo intervenendo solo per la Grecia ed esclusivamente per la Grecia, chiaramente non vale nemmeno la carta su cui è scritta, e questo è un invito a nozze, diciamo, per la speculazione, dove ovviamente per speculazione io non mi riferisco ad eventuali forze del male cospirazionistiche alle quali non credo recisamente, ma semplicemente ai mercati che testano la volontà e la veridicità di determinate affermazioni della politica. Non è possibile dire che una cosa del genere riguarderà esclusivamente la Grecia. La Grecia oramai è un comprimario. A mio modo di vedere, personalissimo, la Grecia comunque andrà in default e dovrà ristrutturare ben più pesantemente di quanto stabilito nel vertice del 21. Il target sono Italia e Spagna e quelle devono essere schermate, diversamente si va verso il disastro. Altro punto che vorrei evidenziare è che è stato quello che gli anglosassoni definiscono game changer, cioè quello che ha di fatto cambiato drammaticamente lo scenario, è il fatto che questo vertice del 21 luglio ha stabilito il concetto e formalizzato il concetto del coinvolgimento del settore privato. Nel momento in cui si decide che i privati devono compartecipare dell'onere di eventuale ristrutturazione, si dà un messaggio ai mercati, purtroppo aggiungo io, attraverso il quale si dice ai mercati provate a vedere se questo è vero anche per altri paesi diversi dalla Grecia. E siccome il dubbio è il principale nemico delle valutazioni di mercato e nel dubbio si vende, il risultato è quello che stiamo vedendo nei confronti del nostro paese, il quale del suo, come noto, ha una vulnerabilità strutturale che si trascina da almeno una quindicina di anni, cioè non cresce. Chiarissimo, mi sembra un'analisi chiarissima e anche tutto sommato impietosa. Moria Longo, allora, al di là di discorsi generici che possiamo fare sulla crescita, a me sembra di capire che tutto sommato da soli alla fin fine, anche sentendo quello che diceva Seminerio, da soli non se ne esce. E pongo un altro dubbio che giro a te e giro a Seminerio, che ci ricordava la decisione europea e l'impatto che ha avuto. Al di là della scelta di far intervenire i privati, il principio che è passato, che se un paese è ridotto in condizioni drammatiche anche dal mercato e quindi anche dall'attacco della cosiddetta speculazione, l'Europa è pronta ad intervenire, è comunque in qualche misura un messaggio alla cosiddetta speculazione, cioè mani libere, perché tanto prima o poi Bruxelles arriva mamma a Bruxelles. Può essere letta così, può essere letta anche nell'altro modo. Non speculate, perché tanto poi noi andiamo contro la vostra speculazione, e si sa che andare contro, cioè nessuno specula contro l'autorità o le banche centrali, perché queste hanno una potenza di fuoco maggiore. Io ricorderei quello che ha fatto la Federal Reserve in America. In America ha fatto ben due quantitative easing. Questa è una parola tecnica che vuol dire sostanzialmente acquisto di titoli di Stato sul mercato, emissione di liquidità con una mano acquista, con l'altra emette liquidità. Adesso tutti si aspettano che lo farà per la terza volta. Quindi la banca centrale americana è stata il principale acquirente di titoli di Stato emessi dal tesoro americano, e lì l'hanno fatto in quantità industriale. In Europa si è fatto centellinando soltanto in alcuni momenti, e comunque non è stato un quantitative easing, è stato qualcosa di diverso. Ecco, se si facesse un qualcosa di più forte, non dico il quantitative easing, ma qualcosa di forte, il mercato sa che l'autorità di la banca centrale, i governi si muovono verso una direzione, e sa, il mercato capisce che quella è la direzione che le autorità vogliono, e hanno tutte le potenze, tutte le armi possibili dispiegate su questa direzione, allora i mercati forse inizierebbero a speculare dall'altra parte, perché ovviamente la speculazione va dove tutti credono che il mercato vada. Se inizia a insinuarsi il dubbio che il mercato possa risalire, ovviamente chi ha posizioni corte, cioè quindi chi sta speculando a ribasso, deve ricoprirsi, altrimenti prende schiaffi in faccia. Quindi la speculazione si può anche cambiare, serve, ripeto, una volontà politica, cioè un messaggio forte, qualcosa di concreto, non faremo, saremo. Questo non basta al mercato. Naturalmente. Seminerio, arriva via SMS una domanda da un ascoltatore, dice, insomma, dopo tutto il discorso che lei faceva, bisogna, insomma, una volta salvata la Grecia, una volta salvata la Spagna, l'Italia, bisogna poi salvare la Germania, poi la terra, insomma, qual è la dotazione necessaria? Cioè, non esiste nei fatti una dotazione necessaria. Ma diciamo che bisognerebbe partire da una valutazione di non solo di quella che è stata fino ad ora una cessione di sovranità monetaria, ma anche evidentemente una cessione di sovranità fiscale. Quindi una serie di valutazioni sulla formazione dei bilanci nazionali, un processo di supervisione dotato di denti, come dico io, e soprattutto direi maggiori poteri di sorveglianza sulla veridicità dei bilanci nazionali. Sicuramente è un processo molto lungo, molto doloroso, non si risolverà molto rapidamente, e credo che sicuramente andrà molto peggio prima di andare meglio, perché qui stiamo parlando della eventualità di una unione fiscale, perché attraverso una unione fiscale si giungerebbe al controllo di determinate dinamiche di debito. Poi chiaramente ci sono degli squilibri macroeconomici tra singoli paesi che derivano da deficit di competitività a livello nazionale, c'è un programma di riforme strutturali pro competitività che è largamente deficitario nei maggiori paesi europei. Sinceramente ci sono delle problematiche veramente da far tremare le vene ai polsi. Se posso rapidamente commentare quanto diceva prima Moria Lungo rispetto all'azione della Fed negli Stati Uniti e ad un'eventuale applicazione analogica da parte della Banca Centrale Europea. Il problema è che chiaramente la Fed ha questo doppio mandato, ma soprattutto stabilità dei prezzi compatibile con il pieno impiego, che non è il mandato di una BCE che è costruita sul modello della Bundesbank. Per determinare un easing quantitativo con munizioni virtualmente illimitate da parte della BCE bisognerebbe cambiare tali e tanti trattati che probabilmente non si andrebbe comunque da nessuna parte, senza contare che la Fed negli ultimi anni ha svolto un ruolo quasi fiscale che per molti aspetti ne ha minato la credibilità e la indipendenza sostanziale, per cui c'è una serie di effetti collaterali anche in azioni apparentemente più incisive e più sinergiche, come sono quelle ad esempio che ha svolto la Fed con l'easing quantitativo. Ma questo, con questo non voglio dire che l'azione della Fed sia stata strutturalmente sbagliata, dico semplicemente che per l'Europa, per l'Unione Europea, bisogna pensare a qualcosa di differente, ma compatibilmente comunque con l'ipotesi di ristrutturazione di alcuni debiti nazionali. Un ultimissimo inciso, sì. Io dico sempre, anche a livello di provocazione, sarebbe probabilmente stato meno costoso lasciare andare in default sovrano i paesi che hanno una insostenibilità di debito e successivamente procedere a ricapitalizzazione tramite nazionalizzazione delle banche creditrici. So che questa è una considerazione che suscita scandalo e anche un paradosso, ma temo che possa essere un paradosso piuttosto veritiero nella situazione drammatica nella quale ci stiamo incamminando e nella quale ci troviamo già oggi. Per chiudere, Moria Lungo, volevi aggiungere qualcosa? No, volevo dire, certo, sono d'accordo sulla Federal Reserve, anche perché la Federal Reserve ha creato la più grande speculazione che ci sia stata negli ultimi anni. E quello che dicevo era che bisognerebbe trovare un qualcosa però di analoga potenza, un qualcosa su cui il mercato crede e capisca che c'è veramente un muro. Quello volevo dire. Benissimo, grazie dunque a Moria Longo del Sole 24 Ore. Vi ricordo tra l'altro che prosegue sul Sole 24 Ore di domani il focus sui mercati dopo l'accordo sul debito americano, uno speciale mercati dedicato a titoli di Stato hedge fund e uno speciale piazza affari, titoli che soffrono e quelli controcorrente. E poi ancora, ancora una volta, il tema dei titoli di Stato, dello spread che abbiamo toccato oggi. Grazie dunque a Moria Longo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. E grazie a Mario Seminerio, analista macroeconomico, portfolio advisor, autore del blog Fastidio, scritto col PH Fastidio. Ve lo ricordiamo se lo volete cercare su internet. Buonasera Seminerio. Grazie, buonasera. Qualche altra notizia sui temi che abbiamo trattato, che non vi abbiamo dato prima e che comunque, come dire, ci sembrano interessanti. Allora, i CDS, i credit default swaps, innanzitutto, che cosa sono? Sono dei derivati, una sorta di assicurazione dal rischio di default di un paese, e come per tutte le assicurazioni, più c'è il rischio, più costa il premio. La diciamo in termini semplici, naturalmente un prodotto un po' più complicato, però sono strumenti che abbiamo imparato a conoscere anche nei mesi scorsi, sulla scorta dei ripetuti allarmi per la Grecia e conseguentemente dei ripetuti allarmi per l'Italia. Vi aggiorniamo anche su quelli. Sono in aumento i credit default swaps sulla Spagna, 400 più 30 punti base, e anche sull'Italia più 34 punti base a quota 367 contro i 420 della Spagna. Entrambi comunque sono a livelli record. Altre questioni, altre vicende, è la vicenda della vendita di titoli di Stato italiani da parte di Deutsche Bank. Ve l'abbiamo raccontato anche quello nei giorni scorsi. Che cosa ha fatto Deutsche Bank? Nel giro di 6 mesi ha ridotto la sua esposizione dell'88% verso l'Italia, verso il debito sovrano italiano, quindi vendendo nella sostanza, e per farla semplice, 7 miliardi e passa di BTP, molto se ne è discusso, comprando appunto credit default swaps, ossia assicurazioni dal rischio di fallimento. Ebbene, la Consob ha chiesto informazioni a Deutsche Bank sulla recente vendita di BTP italiani. Questo lo ha riferito il sottosegretario all'economia Bruno Cesario durante un'interrogazione in commissione finanze alla Camera. Questo su richiesta della Lega. La politica, vi abbiamo detto, è in corso la riunione, e vedremo se emergerà qualcosa, del Comitato di Stabilità, convocata dal Ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Parla intanto il Presidente della Repubblica, dice: nell'attuale momento la parola è alle forze politiche di governo e di opposizione, chiamate a confrontarsi con le parti sociali sulle scelte da compiere per stimolare decisamente l'indispensabile crescita dell'economia e dell'occupazione. Insomma, dice Napolitano, seguirò attentamente gli esiti di tale confronto, partendo dalla preoccupazione che non ho mancato di esprimere e che facciamo nostra per gli andamenti dei mercati finanziari e dell'economia nei loro termini generali e nei loro specifici aspetti italiani. Napolitano, che ha ricevuto un'altra volta oggi, se non erro è la terza, quarta o la quinto, il quinto incontro nel giro di pochi giorni, il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. Adesso questo il quadro, dove naturalmente attendiamo per domani l'intervento del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, al quale dedicheremo uno speciale alle 15 alla Camera dei Deputati. Veniamo però adesso alle borse. Allora, sul quadro generale c'è poco da dire, perché il FTSE MIB c'è del 2,5%, il FTSE All Share il 2,51%, dopo già i pesantissimi ribassi di ieri. Francoforte giù del 2,26%, Parigi dell'1,82%, negativa anche l'America con il Dow Jones che c'è dello 0,85%, e il Nasdaq lo 0,84%. Vediamo quindi di concentrarci sui singoli titoli. C'è Ocondine di Radio Core, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Iniziamo da Fiat, che gli ascoltatori ci chiedono a gran voce: ma come mai va così male? Beh, grossi realizzi sul titolo oggi, sia sulla SPA che perde lotte 4%, sia sull'industrial che leggermente, era andata leggermente meglio della SPA nelle ultime settimane, meno 6,1%, e anche sulla Exor, cioè sulla holding di controllo degli Agnelli, che perde il 6,3%. Insomma, gli operatori legano questo calo al calo delle immatricolazioni. Ricordiamo il peggior mese da 28 anni a questa parte, quello di luglio. Fiat è calata meno della media, ha perso l'8,4% a livello di mercato, ma comunque oggi gli operatori l'hanno duramente punita, come possiamo vedere dalle performance. Allora, quindi Fiat meno 8,43, Exor meno 6,37 la controllante, Fiat Industrial meno 6,18 e poi questa Buzzi Unicem che lascia sul terreno 6 punti percentuali. Sì, Buzzi è stata molto debole anche ieri, ha perso il 4,7%, per le costruzioni non è il momento migliore, perché ci sono, come è evidente a tutti, delle condizioni macroeconomiche generali veramente penalizzanti, sicuramente non ben auguranti per il futuro. In più, per le costruzioni c'è stato questo profit warning della francese Lafarge nei giorni scorsi, che fa un po' da faro per tutto il settore delle costruzioni europee, quindi Buzzi ancora oggi ha pagato duramente, meno 6%. Allora, giù anche Pirelli del 5,82%, i bancari nemmeno a dirlo, Unicredit meno 5,77%, UbiBanca il 5,5%, Mediolanum il 5,2%, Intesa San Paolo altrettanto, la Popolare di Milano il 5,04%, Mediobanca il 4,5%, Banco Popolare il 4,37%, questo più o meno il quadro per quanto riguarda i bancari. Insomma, mi sembra che qua ci sia poco da dire. Ti chiedo invece di Telecom Italia. Ma Telecom oggi è andata relativamente meglio, insomma, del FTSE MIB, delle ex blue chip, meno 1,13%, qui i riflettori degli operatori sono sul Consiglio di Amministrazione di giovedì, che avrà all'esame i conti del secondo trimestre 2011, che potrebbe vedere, secondo il consensus, cioè un sondaggio informale che viene effettuato presso gli analisti i giorni precedenti alla diffusione dei dati, appunto il secondo trimestre che dovrebbe vedere ricavi in crescita dell'8,7%, a oltre 7 miliardi di euro, ma un utile in peggioramento del 9,8% rispetto al secondo trimestre dell'anno scorso. Quindi, insomma, conti in chiaroscuro, e titolo che però, ricordiamolo, è ai minimi da marzo 2009, anche se è un po' difficile trovare un titolo che sia ai massimi di questi tempi. Allora, brevemente, Enel Green Power più 0,90%, qua ci sono i conti e va bene anche la controllante, complessivamente abbastanza bene tutto il settore dell'energia. Sì, infatti se guardiamo i primi titoli, appunto Enel Green Power più 0,9% grazie a un utile netto in crescita del 18,6%, poi la conferma di tutti gli obiettivi per il 2011, bene anche Enel più 0,36%, Snam Rete Gas praticamente pari, A2A perde lo 0,2%, e diciamo che i titoli delle utility e dell'energia in generale sono un po' i classici titoli rifugio in momenti come questo, e appunto gli operatori non li hanno puniti più di tanto, almeno oggi. In calo Campari dell'1,99%, dopo che ieri era stato il titolo migliore del listino, si sono sprecate le battute da parte degli ascoltatori, e giù anche Atlantia del 2,24%, Autogrill del 2,40%, ST del 2,62%, Parmalat del 2,90%, Parma del 2,7, Generali del 2,90 e via dicendo. Poi ci sono tutti i bancari, naturalmente, in mezzo ai quali si piazzano Mediaset, che perde 3,5 punti percentuali, Luxottica altrettanto, Finmeccanica ancora una volta in calo, meno 3,84%. Grazie a CEO Condina di Radio Core, il Sole 24 Ore, buonasera. Grazie a voi, buona serata. Nei giorni scorsi c'è stato il passaggio del testimone al vertice delle cantine Ferrari. Il presidente Gino Lunelli, da oltre 50 anni alla guida del gruppo delle bollicine, ha recentemente passato la mano al nipote Matteo. Lo sapete, la Ferrari è specializzata nella produzione di spumanti, è leader in Italia, tra le prime 10 al mondo, è stata fondata nel 1902. In questo modo che si conclude un ricambio generazionale all'interno dell'azienda trentina, con l'ingresso nella tolda di comando di 4 cugini. Nella holding di famiglia entrano poi 2 nomi noti del mondo della finanza e dell'economia: l'ex presidente della Ferrovie Innocenzo Cipolletta e l'ex banchiere Lino Benassi. Buonasera al neo presidente delle cantine Ferrari, Matteo Lunelli. Buonasera, buonasera. Allora, si conclude in questo modo un ricambio generazionale dell'azienda trentina con l'ingresso nella tolda di comando. Siete quattro cugini, Lunelli, no? Assolutamente, siamo quattro cugini della terza generazione, visto che insomma l'azienda fu acquisita nel 1952 da mio nonno, quindi l'azienda di Rivero ha oltre 100 anni di storia, ma dal 52 è di proprietà della mia famiglia e noi siamo parte della terza generazione. Quindi lei è il nuovo presidente, io adesso fornirò qualche dato e mi corregga se sbaglio, il fatto che le cantine Ferrari siano specializzate nella produzione di spumanti lo sappiamo, è il leader in Italia, tra le prime 10 al mondo, un fatturato 2010 da 54 milioni di euro in crescita sul 2009 del 10% e un utile netto di 6,9 milioni, i dati sono corretti, Lunelli? Esatto. Vorrei iniziare proprio da questo passaggio, dal passaggio generazionale. È un tema che abbiamo affrontato molto spesso. Le imprese familiari in Italia sono circa l'82% contro il 60% della Germania, il 75% della Spagna, il 63% dell'Inghilterra. Mi sembra che a questo punto è abbastanza evidente che voi non viviate come un limite tutto questo. Assolutamente no. Credo che in particolar modo nel settore del vino la famiglia possa essere un vantaggio competitivo, anzi un fattore critico di successo, se riesce a dare all'azienda soprattutto un'ottica di lungo periodo e se riesce secondo me a essere un po' garante dei valori e della cultura dell'azienda stessa. E questo è quello che la mia famiglia ha sempre fatto all'interno della cantina Ferrari e che io oggi come presidente spero di una tradizione che voglio e spero di portare avanti. Credo che sia, da questo punto di vista, nessuno meglio di una famiglia può garantire la continuità dei valori di un'azienda nel lungo periodo. E il vino è un settore dove l'orizzonte non può non essere di lungo periodo. Pensate che noi oggi stiamo vendendo alcune etichette che sono della vendemmia, il nostro Ferrari Perlé della vendemmia 2005, addirittura la nostra riserva Giulio Ferrari è una vendemmia 2001, anno addirittura in cui io non ero neppure in azienda. Lavorare nel mondo del vino significa lavorare su cicli pluriennali ed è necessario avere un'ottica di lungo periodo che secondo me una famiglia riesce a avere proprio nella misura in cui probabilmente vede all'azienda come a qualcosa che deve andare avanti di generazione in generazione. In fondo il nostro passaggio generazionale è questo, è il testimone che passa dalla seconda alla terza generazione e spero che poi sarà a nostra volta il nostro compito poi passarla nelle mani della quarta. Mi sembra evidente il ragionamento, mi sembra chiaro. Lei dice è una questione di un mantenimento di determinati valori, soprattutto per il nostro settore. C'è chi obietta da questo lato, sì, però dall'altra parte c'è una questione di creazione di valore. La creazione di valore alla fin fine la fanno i manager. Assolutamente, ma io infatti dico la famiglia deve essere allo stesso tempo in grado di creare in azienda un ambiente tale da valorizzare i talenti dei propri collaboratori e deve essere in grado di attrarre dei nuovi talenti. Io l'ho detto subito, ad esempio noi siamo quattro cugini in azienda, ma siamo un'azienda forte perché abbiamo una squadra forte e soprattutto tanti collaboratori che sono con noi da tanti anni. Abbiamo davanti delle sfide molto complesse e senza i talenti che lavorano con noi non riusciremo mai a vincerle. Anzi, devo dire, oggi anche il mercato del vino sta diventando un mercato sempre più complesso e senza una struttura manageriale difficilmente si può puntare a degli obiettivi ambiziosi. Noi, ad esempio, come terza generazione oggi abbiamo l'obiettivo di crescere la nostra quota di export e quindi andare... Al momento a quanto ammonta il vostro export? Il nostro export ancora, in termini percentuali, è una quota minoritaria delle nostre vendite. Perché storicamente la nostra azienda ha avuto un grande successo in Italia e il mercato italiano in passato era in grado di accogliere per intero la nostra produzione. Quindi ancora il nostro mercato principale è di gran lunga l'Italia. Però certamente oggi gli spazi di crescita noi li abbiamo all'estero e credo questa sia la grande sfida, cioè di fare di Ferrari, che in Italia è molto noto, però invece all'estero un simbolo dell'eccellenza dello stile di vita e dell'arte di vivere italiana. Quali mercati? In primo luogo ci sono dei mercati storici in cui noi dobbiamo consolidare la nostra presenza e direi prima di tutto la Germania all'interno dell'Europa e gli Stati Uniti che sono per il vino italiano comunque un mercato importantissimo e ancora un mercato in crescita. E poi alcuni mercati nuovi, per noi in particolare il citerei la Russia, un mercato che accoglie molto bene il Made in Italy, il vino italiano in particolare, e le bollicine, e poi il Brasile, un altro mercato in grande crescita. Tutto sommato poi noi abbiamo un'ottima quota e un'ottima presenza storica all'interno del mercato giapponese, che quest'anno ovviamente vive un periodo di difficoltà, ma che io credo tornerà a essere un cliente importante per il vino italiano. Noi come Ferrari, ripeto, crediamo di poter affrontare una sfida insieme alle altre bollicine italiane di qualità, e cioè quella di portare nel mondo le bollicine italiane, che oggi in Italia sono ormai accreditate, oggi il consumatore italiano riconosce la qualità delle bollicine italiane, metodo classico. È una sfida che però all'estero va ancora vinta. Tra l'altro, devo dire la verità, la sfida invece con i francesi, quella sembra vinta, perché i dati di quest'anno danno 380 milioni di bottiglie per le bollicine italiane contro i 370 milioni prodotti oltralpe. Come mai è avvenuto questo sorpasso? C'è una questione, al di là della questione di qualità e del fatto che sicuramente la qualità si è elevata in questi anni per le bollicine italiane, ci sono anche per esempio questioni di prezzo? Sicuramente bisogna registrare un successo delle bollicine italiane nel mondo. D'altro canto bisogna essere molto cauti nell'analizzare questi dati, perché le bollicine francesi esportate nel mondo sono bottiglie con un prezzo medio assai più elevato rispetto al nostro. In questo senso, ad esempio, Ferrari, che è comunque una bollicina di alta qualità con un prezzo medio elevato, noi ci confrontiamo proprio con lo champagne. Ecco, se si confronta quello che è il vertice qualitativo delle bollicine italiane con lo champagne, ovviamente i nomi sono ancora assai diversi. Quindi dico sì, le bollicine italiane stanno vivendo un ottimo momento, un momento di grande successo, e credo che abbiamo un'ottima opportunità per il futuro, ma bisogna stare attenti a pensare che la sfida sia ancora vinta, perché questi numeri non sono pienamente confrontabili. Previsioni dunque per il 2012, si è fatto un'idea? Dividerei in due la mia analisi, cioè partiamo sull'Italia, prevedo ad esempio sia per la nostra azienda che in generale per i consumi di vino una situazione abbastanza stabile. Tra l'altro l'Italia in generale, in Italia si vive da anni a un calo dei consumi in termini quantitativi, il consumatore cerca sempre di più la qualità, e in questo senso anche noi come Ferrari ne abbiamo beneficiato e le bollicine stanno avendo un'ottima performance, però i consumi di vino sono direi in calo. Se pensiamo che negli anni 70 si consumavano quasi 120 litri pro capite e oggi siamo sotto i 40 litri pro capite. Comunque come Ferrari guardiamo in ogni caso con ottimismo anche al mercato italiano, perché le bollicine all'interno del mercato del vino sono accolte molto positivamente dal nostro consumatore. Mi aspetto una performance molto più positiva dai mercati esteri, i dati, questo sia per quello che è il mercato sia per noi di Ferrari, la performance del vino italiano all'estero è molto positiva in questo inizio d'anno, e lo è anche quella delle nostre esportazioni come Ferrari. I mercati di cui abbiamo parlato prima, quindi Russia, Brasile, così come la Cina e gli Stati Uniti, sono in crescita e credo potranno ancora dare soddisfazioni al vino italiano. Vedremo che cosa succederà e lo speriamo naturalmente. Grazie a Matteo Lunelli, che è neo presidente delle Cantine Ferrari, e buonasera. Grazie a tutti voi e un saluto. E chiudiamo così anche questa puntata di Focus Economia, non prima di avervi dato due notizie che riguardano il ministro dell'economia Giulio Tremonti, che oltre all'incontro previsto per domani in mattinata con il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker, avrà nella serata di oggi un colloquio telefonico con il commissario europeo agli affari economici e finanziari Olli Rehn, proprio per parlare appunto del tema della crisi del debito e di quel che sta succedendo in queste ore sui mercati. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, un ringraziamento a Mauro Del Corno in redazione, Mauro De Angeli in regia, un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione si sente.